Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Dalla peste di Atene raccontata da Tucidide e da Lucrezio a quella di Giustiniano nel VI secolo, dalla peste del 1630 raccontata da Manzoni con tanto di untori e presunti guaritori, alla tremenda pandemia che era esplosa 3 secoli prima, nel 1348, la peste nera. Da sempre l'umanità convive con l'incubo delle epidemie, delle pandemie, dei virus mutanti, proprio come il coronavirus cinese che sta allarmando un po' tutti, con effetti ancora da verificare, ma certamente non positivi sull'andamento dell'economia mondiale. Date le caratteristiche del virus e la sua velocità di propagazione, ma anche grazie alle misure di prevenzione già messe in campo un po' ovunque, l'auspicio è che l'epidemia si possa arrestare in tempi brevi. Nulla a che fare comunque, fortunatamente, con la peste nera del 300, una pandemia che colpì soprattutto le città, simbolo dello sviluppo medievale. Ma paradossalmente, come si legge nel capitolo La storia mondiale dell'Italia, curato da Andrea Giardina, edito dalla Terza, dal titolo Gli untori italiani per la peste nera, è proprio la peste a testimoniare quanto il mondo fosse già allora interconnesso. La peste trecentesca fu un fenomeno mondiale che colpì come un maglio indiscriminatamente Asia, Africa ed Europa. Si stimano tra i 75 e i 200 milioni di morti. Questa pestilenza ha marcato di sicuro un tornante epocale tra un prima, di crescita e sviluppo per l'Occidente, segnato da un incremento demografico e da un miglioramento del generale tenore di vita, e un dopo, di margine del caos, nel quale l'umanità visse un violentissimo tracollo demografico, da cui fu possibile venir fuori grazie a una serie di adattamenti funzionali e di anticorpi sociali che trasformarono spesso il caos in nuove possibilità di vita, di condizione, di opportunità. Così da tramutare la crisi, per dirla alla Schumpeter, in una distruzione creativa che permise di traghettare l'Europa medievale nella modernità. Ecco, degli sviluppi dell'epidemia polmonare esplosa in Cina e soprattutto dei suoi effetti sull'economia mondiale parliamo questa sera con il professor Marcello Messori, che è docente di economia al Dipartimento di Economia e Finanza della LUIS e direttore della LUIS School of European Political Economy. Buonasera professore, bentornato. Buonasera, grazie. Allora, parliamo naturalmente degli effetti sull'economia mondiale di questo, di questa epidemia che è esplosa ormai da oltre un mese. Difficile stimarne gli effetti? Assolutamente sì, anche se possiamo escludere per il momento che si tratti di una rottura così profonda come quella generata dalla peste nera molti secoli fa. Per ora è una minaccia concreta alla stabilità del commercio internazionale e alla stessa stabilità dell'economia cinese, ma non comporta rotture così drammatiche. Certo, dobbiamo tener conto che, diversamente da quanto era vero una decina d'anni fa, in occasione di un fenomeno analogo, la SARS, l'economia cinese oggi pesa molto di più, sia in termini di produzione lorda mondiale, sia in termini di incidenza sul commercio internazionale. Quindi un blocco, seppure parziale, dell'economia cinese rischia di avere un impatto importante sugli andamenti dell'economia internazionale. E già poi, perché dobbiamo ricordare ai nostri ascoltatori che in realtà il ciclo economico mondiale era già virava in negativo nello scorso anno, almeno dal secondo semestre, per effetto della guerra dei dazi, che peraltro coinvolgono anche la Cina. Quindi sono due elementi che producono ulteriore incertezza. Ecco, ma come ci si può attrezzare per farvi fronte? Io parlo dell'Europa, ma anche dell'Italia. Ma io credo innanzitutto che si debba sottolineare correttamente che lo shock generato dal passaggio, per così dire, a un equilibrio multipolare verso una contrattazione bilaterale scelto dall'amministrazione Trump costituisca una minaccia ancora più grave, perché strutturale, rispetto agli andamenti del commercio internazionale. Noi eravamo stati abituati negli ultimi 20 anni a una crescita continua del commercio internazionale. Le scelte fatte dall'amministrazione Trump hanno interrotto questo processo. Lo shock determinato dal cosiddetto coronavirus ha aggiunto incertezza a una situazione di incertezza, e devo dire che mentre sono ragionevolmente ottimista sul fatto che il coronavirus costituisca uno shock temporaneo che presto sarà superato da una ripresa dell'economia cinese e dell'economia internazionale, sono più pessimista sull'evoluzione degli scambi internazionali, perché credo che la scelta fatta dagli Stati Uniti sia una scelta largamente irreversibile. Da questo punto di vista io credo che gli altri paesi dovrebbero reagire, dovrebbero opporsi a questa torsione verso squilibri bilaterali e debbano cercare di ripristinare, magari anche con la relativa emarginazione dell'economia statunitense, un equilibrio multipolare. Questo naturalmente è facile a dirsi, ma molto difficile a farsi. Sì, e già, e questo chiama in causa l'Europa, perché è vero che Trump appunto sta mettendo in atto una politica che privilegia le relazioni bilaterali, ma questo sta picconando, come dire, le istituzioni multilaterali quali noi le abbiamo conosciute dal secondo dopoguerra in poi. L'Europa in questo che ruolo può giocare, professore? Innanzitutto l'Europa è la vera vittima insieme alla Cina, perché questo può non piacerci, ma dobbiamo riconoscere che quel poco tanto di crescita che l'area dell'euro e dell'Unione Europea hanno realizzato in questi anni è stato soprattutto determinato dalle esportazioni nette, cioè dal traino rappresentato dalla domanda internazionale. All'interno dell'euro area in particolare, i risparmi sono molto più elevati degli investimenti totali, e questo, come dire, è l'altra faccia del fatto che le esportazioni nette sono positive, e che significa che l'Europa da sola, contando soltanto sulla domanda interna, non ce la fa a crescere. Io credo che questo sia un fatto inaccettabile per una delle aree più importanti del mondo. Nonostante questo, va riconosciuto che la domanda internazionale, anche con una diversa modalità di crescita, rimane fondamentale nell'economia attuale, e quindi l'Europa dovrebbe, da un lato, correggere il proprio processo di crescita puntando di più sul proprio mercato interno, dall'altro dovrebbe cercare alleanze, in primo luogo con la Cina e con altre aree economiche extra-statunitensi, per porre un argine a questa deriva bilateralista e, come dire, non cooperativa innescata dall'amministrazione Trump. Ecco, veniamo in ultimo all'Italia, professor Messori, perché evidentemente gli ultimi indicatori parlano di un'economia che è, insomma, stagnante. Lo 0,2, lo 0,3 sono indici di crescita largamente insufficienti, e l'Italia è largamente al di sotto della media europea, che pure non cresce a ritmi brillanti. Ora c'è anche l'epidemia coronavirus. Ecco, l'Italia che può fare per cercare di uscire da questa situazione di bassa crescita, di produttività stagnante? Beh, visto che abbiamo evocato Manzoni nella precedente descrizione storica, possiamo usare la metafora del vaso di coccio. L'Italia, come dire, subisce gli shock esogeni negativi in misura ancora maggiore di quanto non li abbia subiti l'area dell'euro. È davvero, come dire, l'anello debole, e questo per una serie di ragioni che lei già ha evocato: una dinamica della produttività che è stagnante dalla metà degli anni 90, un invecchiamento della popolazione che è sempre più accentuato. Questi sono i due elementi essenziali per una crescita di lungo periodo. Quindi noi dobbiamo puntare, visto che invertire le tendenze demografiche richiede molto tempo, nel breve periodo noi dobbiamo puntare a una ripresa della produttività, e una ripresa della produttività si ottiene soltanto se si è in grado di aprire l'economia all'innovazione. Oggi è vero che un piccolo nucleo di imprese italiane è sulla frontiera dell'innovazione internazionale, tanto che l'Italia pesa in modo importante nel commercio internazionale, però la gran massa dell'economia non si è ancora adattata alle nuove traiettorie tecnologiche, alle nuove traiettorie innovative. Ecco, noi dobbiamo generalizzare il buon esempio dato dalle poche imprese innovative del nostro paese ed estenderlo al resto dell'economia. Anche qui, come dire, è molto facile a dirsi ma difficile a farsi, perché questo è un processo che non può nascere soltanto all'interno delle singole imprese, ma richiede una maggiore efficienza e una migliore efficacia sociale dell'intera economia e dell'intera società, e quindi bisogna porre mano a una serie importante di riforme sia in campo strettamente economico che in campo istituzionale. Già, siamo totalmente d'accordo, professore, perché in realtà le riforme occorrono e occorre anche la stabilità politica perché queste riforme possono essere realizzate. Noi la ringraziamo molto per essere stato con noi e averci aiutato un po' a capire meglio gli effetti economici di questa pandemia di coronavirus. Grazie a lei e ai radioascoltatori. Grazie ancora. Allora, io ringrazio Luca Cremonese in redazione, Alessandro Chiappini in regia. Cari ascoltatori, alla settimana prossima. Buona serata a tutti.